Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi capitolo 2, versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Ogni essere umano, dalla creazione di Adamo fino al giorno d'oggi, porta dentro di sé qualcosa di profondamente divino. La creazione riguarda Dio stesso, che si china sulla polvere della terra, formando il primo uomo con le sue proprie mani. Ma ciò che realmente gli diede vita fu l'alito di Dio. Questo atto non è solo un dettaglio poetico, ma una potente verità sulla natura umana. In un mondo in cui la dignità della vita umana viene messa in discussione, e mal interpretata, Genesi 2, 7 ci riporta un ricordo essenziale. Ogni vita è sacra perché porta l'alito di Dio. Cerchiamo di comprendere meglio questo passo. Genesi capitolo 2, versetto 7 ci offre un'immagine intima della creazione dell'essere umano. Dio, che aveva già creato tutto con la sua parola, decide ora di formare l'uomo con le sue proprie mani. Questa azione evidenzia la cura e lo scopo dietro la creazione umana. Non siamo semplicemente una creatura sulla terra prodotto dal caso, ma siamo il risultato dell'opera personale di Dio. Il verbo formare in ebraico, yatzar, è lo stesso usato per descrivere un vasaio che modella l'argilla. Dio, come il grande vasaio, forma l'uomo con un disegno specifico e soffia in lui il suo alito, Ruach, che è più che un semplice respiro, è lo spirito, la vita stessa di Dio. Questo non solo ci dà vita fisica, ma anche una vita spirituale e morale, con la capacità di relazionarci con il nostro Creatore in un modo unico. In Giovanni capitolo 1, dal 3 al 4, vediamo che Cristo è colui che dà la vita. Infatti dice, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei, cioè di Cristo, neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Cristo è il mezzo attraverso il quale siamo stati creati ed è anche colui che sostiene la nostra vita spirituale. Così, l'alito di vita che ricevemmo nella creazione è un riflesso del ruolo vitale di Cristo nella nostra esistenza. Ecco tre verità bibliche estratte da questo passaggio. Numero 1. Valora la vita umana come un dono divino. Ogni giorno è un'opportunità per ricordare che la tua vita è un regalo di Dio. Vivi con gratitudine, sapendo che sei stato formato e sostenuto dal Creatore. Numero 2. Riconosci la dignità degli altri. Ogni persona che incontri porta in sé l'alito di Dio. Tratta gli altri con il rispetto e la dignità che meritano come portatori dell'immagine di Dio. Questo è particolarmente importante in un mondo sempre più disumano e privo di affetto. E numero 3. Cerca la vita in Cristo. Come Dio soffiò vita in Adamo, Cristo è colui che soffia vita spirituale in noi. Cerca in Lui la fonte della tua vita e permetti che quella vita ti guidi in ogni decisione e azione che prendi. Riflettendo su Genesi capitolo 2, versetto 7, ricordiamo che la nostra vita non è un caso, ma un capolavoro del Creatore. Siamo stati formati da Dio e portiamo il suo alito nel nostro essere. Mentre procedi in questo nuovo anno, vivi con la consapevolezza che ogni respiro è una testimonianza della vita che Dio ti ha donato. Permetti che la tua vita e che la vita, anzi che la vita di Cristo sia la tua guida e il tuo scopo, ricordando sempre che il tuo valore proviene dall'essere stato formato dalle mani di Dio e vivificato dal suo alito. Preghiamo. Signore, grazie per il dono della vita. Aiutami a vivere ogni giorno con la consapevolezza di essere stato formato da te e di portare il tuo alito in me. Fa che ogni decisione